sicuramente si tratta di una crisi senza precedenti, nel senso che non era mai avvenuto uno strappo di questa misura. Non c'è stato in effetti una novità particolare per quanto riguarda le scelte adottate dagli attori istituzionali. Non è la prima volta che un Presidente della Repubblica si rifiuta di nominare un ministro propostogli da un Presidente del Consiglio incaricato, non è la prima volta che un Presidente del Consiglio incaricato rimette il mandato, quindi da questo punto di vista non ci sono novità rispetto al passato. Quello che è nuovo è il modo con cui le forze politiche hanno reagito a questa situazione, in particolare alla scelta di Mattarella di non nominare il Ministro dell'Economia proposto da Giuseppe Conte, cioè il Presidente del Consiglio incaricato, arrivando addirittura a paventare la messa in stato d'accusa, il cosiddetto impeachment. In realtà anche questo è qualcosa che già si era vista in passato, cioè già in passato si sono viste delle procedure, dei tentativi di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, ma non sono mai state effettivamente approvate e soprattutto non sono mai state tirate in ballo per una questione che atteneva alla formazione del governo, come in questo caso. C'è anche chi sostiene che questa mossa di Mattarella, se può essere, come dire, legittima dal punto di vista formale, poi rischia di andare a favorire quelle stesse forze politiche che non sono riuscite ora a formare un governo. Beh, certo, qui in realtà ci sono due considerazioni da fare. La prima è giustamente quella di cui si è dibattuto fin dall'inizio, cioè se fosse una questione legittima nelle prerogative del Presidente della Repubblica oppure no. Da questo punto di vista è abbastanza, diciamo, evidente che la lettera dell'articolo 92 della Costituzione è stata rispettata, perché il Presidente della Repubblica nomina i ministri proposti dal Presidente del Consiglio incaricato, ma non è tenuto a farlo, non è obbligato a farlo, almeno la Costituzione non lo obbliga. Quindi da questo punto di vista si può ragionare se le valutazioni che ha fatto Mattarella e che ha spiegato pubblicamente siano valutazioni condivisibili oppure no. Naturalmente tutti sono criticabili in una democrazia, compreso il Presidente della Repubblica, e la questione, diciamo, più interessante è capire se le motivazioni che lui ha addotto sono motivazioni con cui si può concordare oppure no. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è naturalmente quanto questo può incidere sul consenso ai vari partiti e come si giocherà la campagna elettorale, da cui siamo ripiombati, ammesso che ne fossimo mai usciti, perché è chiaro che a questo punto le prossime elezioni saranno un vero e proprio referendum su quello che è avvenuto in questi giorni. C'è chi sostiene che le motivazioni di Mattarella, appunto citavamo, no, i critici, non siano istituzionali ma siano in un certo senso politiche, perché se siamo in una democrazia ci deve essere anche il potere di mettere in discussione quelli che sono gli assetti, gli accordi internazionali in essere. No, cioè in realtà qui il confine, diciamo, è molto, molto labile. Il Presidente della Repubblica fa delle valutazioni di tipo naturalmente puramente politico, ed è chiaro che quando la Costituzione gli assegna un margine di manovra non può limitarsi a fare delle scelte di tipo notarile, soltanto prendere atto di decisioni politiche prese da altri, ma ha un ruolo attivo ed effettivo, come è stato anche in questo caso. E come dicevo prima, naturalmente si può discutere se le motivazioni che ha portato per spiegare le sue azioni siano condivisibili o meno. Non c'è molto da sindacare, a mio modesto avviso, sulla legittimità. È però vero, la questione riguardava effettivamente delle materie molto sensibili di cui il Capo dello Stato in effetti è tenuto a esercitare una vigilanza, cioè il rispetto dei trattati internazionali e per certi versi la tenuta dell'Italia come sistema economico, diciamo così. Da questo punto di vista si può essere d'accordo o meno sul fatto che queste cose fossero effettivamente in gioco, però un fatto è che noi abbiamo rilevato anche nell'analisi della campagna elettorale che ha portato alle elezioni del 4 marzo, nonché nell'analisi del contratto di governo che poi hanno stipulato in un secondo momento il Movimento 5 Stelle della Lega, è vero che la questione dell'Europa e della messa in discussione eventuale dell'Italia all'Unione Europea, al sistema della moneta unica, dell'euro, questi sono temi che non sono effettivamente stati dibattuti né in campagna elettorale né in seguito tra le forze politiche che hanno siglato un accordo di governo. Quindi nel momento in cui il Presidente della Repubblica dovesse ravvisare che da questo punto di vista è stata fatta una scelta non esposta chiaramente agli elettori in anticipo e su cui non si è effettivamente votato nelle ultime elezioni il 4 marzo, ecco, questa è una motivazione abbastanza, diciamo, fondata. A proposito di campagna elettorale, la scelta, adesso poi vedremo se verrà confermata, insomma, di Cottarelli gioca in questa partita, su questo tema, un suo ruolo? Sì. sì, nel senso che Cottarelli, diciamo, nasce, il governo Cottarelli nasce morto, diciamo così, nel senso che è chiaro che non avrà mai numeri per ottenere una fiducia in Parlamento e quindi sarà un governo che nasce dimissionario, andando così a sostituire il governo dimissionario di Gentiloni, che è dimissionario ormai da molti mesi. Da questo punto di vista, diciamo, si libera, tra virgolette, per la campagna elettorale che verrà, Gentiloni non più come Presidente del Consiglio dimissionario e quindi in qualche modo figura di secondo piano che non interviene direttamente nel dibattito politico, come si conviene a un Presidente del Consiglio dimissionario, ma diventerebbe a quel punto un attore politico a tutti gli effetti anche in campagna elettorale. Questa, diciamo, è fra le conseguenze della nomina di Cottarelli eventuale, però mi viene più da dire che le conseguenze più dirompenti di questa nomina si avranno in campagna elettorale, in quello che diranno, nel come verrà valutata questa ulteriore azione di Mattarella dalle varie forze politiche in campagna elettorale.